Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Alfano, segretario del PDL per acclamazione, voglio un partito di onesti, dice non tutti lo sono, e ricandida Berlusconi per il 2013. Alle 17 nuova udienza a New York per l'ex direttore del Fondo Monetario Strauss-Kahn, che potrebbe essere presto libero. Per il New York Times la cameriera avrebbe mentito sulla violenza sessuale. Muore nella notte un uomo di 51 anni dopo l'aggressione in centro. Tutto pronto a Monte Carlo per le nozze reali fra Alberto di Monaco e Charlene, oggi il rito civile. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In apertura la pagina politica con il Consiglio nazionale del PDL che ha incoronato Alfano come nuovo segretario del partito. In diretta da Roma, Andrea Viali. Sì, con un'investitura plebiscitaria sollecitata proprio da Silvio Berlusconi, il Consiglio nazionale del PDL questa mattina, come dicevi, ha eletto Angelino Alfano segretario politico, una nomina questa voluta con forza dal Cavaliere per dare una scossa al partito dopo la sconfitta alle amministrative e ai referendum. L'intervento di Berlusconi ha monopolizzato la prima parte della mattinata, il PDL ha attraversato un momento difficile ma resta il primo partito e può ancora crescere, ha detto Berlusconi, secondo il quale la diaspora di Fini è ormai superata e ora la maggioranza può lavorare alle riforme fra le priorità giustizia e intercettazioni. Sentiamolo. Indispensabile, e tutti voi ne avete contezza, con la riforma della giustizia probabilmente a latere avremo anche un intervento che è ancora più indispensabile dell'intera riforma, che è quello della regolamentazione delle intercettazioni. Non è un paese civile quello in cui i cittadini, quando alzano il telefono, debbono temere che la loro conversazione possa venire violata, intercettata e magari pubblicata dai giornali. Berlusconi ha poi annunciato che sulla manovra varata ieri dal governo verrà messa la fiducia in Parlamento. Quello di oggi è un nuovo inizio, ha detto invece Alfano, che nel suo intervento ha ricandidato Berlusconi alle politiche del 2013. Il PDL diventi il partito degli onesti, perché non tutti oggi lo sono, basta liste in dissenso, sì invece alle primarie, ha aggiunto il neo segretario, che ha anche lanciato l'idea di una costituente popolare. Sentiamolo. Lo dobbiamo costruire insieme, non lo vogliamo donato in eredità. E per costruirlo insieme, la mia opinione, Presidente, è che dobbiamo lanciare una grande costituente popolare con chi è disponibile ad avviarsi su questa strada e su questo progetto. Alfano infine ha fatto sapere che non si dimetterà subito da ministro della giustizia, ma lo farà dopo l'approvazione del codice antimafia. Per ora dal Consiglio nazionale del PDL è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Questa dunque la cronaca degli interventi della mattinata. Facciamo il punto con Stefano Folli del Sole 24 Ore. Partiamo dalle parole di Berlusconi, che ad un certo punto ha pronunciato la parola lascito. Possiamo considerarla, Stefano, una novità questa, oppure si tratta solo di un'espressione di circostanza secondo te? Insomma, lascito è una parola che va bene per la platea, ma non mi sembra che siamo alla vigilia dell'abbandono da parte di Berlusconi della scena politica. D'altra parte Berlusconi qualcosa doveva dire per accreditare Alfano, altrimenti l'avrebbe presentato come un mero portavoce. Alfano ha un problema di radicarsi anche nell'opinione pubblica con un profilo politico, può costruirselo naturalmente, occorre che Berlusconi in qualche modo faccia capire che gli lascia un po' di margine. Ecco, dalle parole invece di Alfano, forse quella che insomma mi sembra più nuova è quella, insomma, voglio un partito di onesti, non tutti lo sono. Insomma, è un'ammissione da qualche punto di vista? Sì, certo. Questo, il tema della legalità è un tema che io penso che il centrodestra non potrà lasciare completamente nelle mani degli oppositori, di Di Pietro o altri, deve in qualche modo recuperare il tema di un rapporto corretto con la cosa pubblica, con un certo modo di stare nelle istituzioni. Questo fa parte di quel profilo complessivo del partito che, partito che vuole essere interprete dell'Italia moderata, che Alfano deve costruire, e è un compito difficilissimo evidentemente, con tantissime incognite, però Alfano, se vuole avere uno spazio e una crescita personale, deve porsi esattamente questi problemi. Ieri è passata la manovra in Consiglio dei Ministri, oggi l'investitura di Alfano a segretario del partito, un partito secondo te che dunque si sta ricompattando? Ma questo è presto per dirlo, è molto presto. Questo è un partito che è stato costruito a immagine e somiglianza di Berlusconi, e così è stato per tanti anni. Adesso inevitabilmente avverte la crisi di Berlusconi dopo 17 anni, e quindi sono emerse queste correnti, sono emersi questi gruppi che guardano ciascuno da una parte diversa, e ricostruirlo intorno ad Alfano è una carta giusta da giocare. Alfano secondo me ha il profilo giusto per tentare l'impresa, però non possiamo dire che non possiamo sapere esattamente quali saranno i risultati. Ci vuole un certo tempo per misurarli, ci vuole anche una certa stabilità politica, e questo francamente è il punto più difficile. Mi sembra che siamo entrati in una fase molto difficile, ricca di punti interrogativi. Alfano ha bisogno di tempo, e ha bisogno anche che ci sia nel partito la consapevolezza che è un'impresa questa che non può fallire, perché se fallisce avremmo la disgregazione in un futuro prossimo di quest'area politica che Berlusconi ha costruito intorno a sé per tanti anni. Grazie a Stefano Folli del Sole 24 Ore. Dunque ieri l'approvazione della manovra, che continua però ad alimentare il dibattito. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Contenuti ed iter parlamentare della manovra al centro del dibattito politico. Sotto la lente di ingrandimento oggi ci sono in particolare Italia, gli enti locali con la reazione di regioni e comuni che parlano di misure pesanti che potrebbero mettere a rischio per il biennio 2013-2014 i servizi ai cittadini. Altro nodo, il ritorno dei ticket sanitari, una manovra sbagliata, dicono molti amministratori, soprattutto per quelle zone dove gli ospedali sono i soli presidi medici. Giudizio positivo dal mondo delle imprese per le misure destinate alla crescita, dal fiscale per i giovani imprenditori alle liberalizzazioni nel settore distributivo. Tra le forze politiche, PDL e Lega rimandano a quanto detto ieri sera da Berlusconi e Tremonti. Si tratta di interventi di buon senso che permetteranno al Paese di rispettare gli impegni europei e lo stesso programma elettorale che ha portato il centrodestra a Palazzo Chigi. Quanto alla fiducia annunciata da Berlusconi sul decreto, dalla maggioranza spiegano che un provvedimento così ampio e necessario per il Paese non potrà subire ritardi nella sua approvazione. L'opposizione, infine, per Bersani, PD è la tomba del federalismo. Casini definisce la manovra una sconfitta annunciata che scarica sul futuro governo gli oneri. Secondo Di Pietro, l'esecutivo ha dato uno schiaffo al Parlamento e preso in giro gli italiani. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietti. All'indomani dell'approvazione della manovra, appunto, arrivano nuovi allarmanti dati sulla disoccupazione. Record su record, la disoccupazione giovanile, quella dai 15 ai 24 anni, non frena la sua corsa. Nel primo trimestre del 2010 è salita al 29,6%, dal 28,8% dello stesso periodo del 2010. I dati Istat dipingono un'emorragia senza sosta, con un picco del 46,1% per le donne del mezzogiorno. Mai è stato peggio dal 2004, ovvero da quando si è iniziato a rilevare il dato. Un record che si conta di mese in mese. Ormai al sud, tra le ragazze giovani, lavora quasi solo una su due. I disoccupati sono tornati, seppur di poco, sopra i 2 milioni. Il tasso di disoccupazione a maggio è salito all'8,1%, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto ad aprile. Un calo però c'è, su base annua, di 0,5 punti. Dopo la caduta durata oltre 3 anni, l'occupazione nell'industria in senso stretto comincia a manifestare un moderato recupero tendenziale, più 1,5%, pari a 70.000 unità. Ma tra chi torna a trovare lavoro cresce sempre più rispetto al passato il numero dei dipendenti a termine. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Alle 17, ora italiana, l'udienza a New York per Dominic Strauss-Kahn. L'ex direttore del Fondo Monetario potrebbe tornare ad essere presto un uomo libero. I suoi avvocati chiederanno che cadano le accuse penali perché, secondo indiscrezioni del New York Times, la cameriera che lo ha accusato di violenza sessuale avrebbe mentito. La donna avrebbe avuto una conversazione telefonica con un uomo detenuto in cui discuteva i possibili benefici del processo. In diretta con noi il corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore, Marco Mussanè. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi. Allora, qualcuno aveva parlato dall'inizio della tesi del complotto, una tesi che a questo punto in qualche modo viene un po' rilanciata. Cosa dici? Ma più che complotto, mi sembra che si stia profilando lo scenario di una banale trappola architettata dalla cameriera ai danni di Strauss-Kahn, nel senso che sembra emergere, in attesa ovviamente dei chiarimenti che dovrà fornire la giustizia americana, però sembra emergere un scenario di questo genere. C'è stato un accordo su un rapporto a pagamento tra Strauss-Kahn e la cameriera del Sofitel, la quale ha pensato o è stata indotta a pensare in un da chi momento, secondo te? Da chi? Ma da chi? Sai, lei ha parlato da quello che si sa per ora dalle ricostruzioni del procuratore. Lei, dopo diciamo l'incidente, dopo l'episodio, lei ha parlato con alcune colleghe dell'albergo, che siano state loro a spiegarle che questa poteva essere una formidabile occasione di guadagnare dei soldi, che qualcun altro nel suo entourage, che sembra emergere come un entourage francamente poco limpido, poco raccomandabile, complotti di alto livello. No, ma ecco, francamente io non credo all'idea di un possibile complotto politico internazionale, esatto, giudo-plutraico contro come dire Strauss-Kahn. No, non ci credo. Marco, credo invece una banale trappola. Potrebbero esserci conseguenze sulle presidenziali? Ma anche qui secondo me francamente no, cioè nel senso che mi sembra difficile che Strauss-Kahn, anche se tecnicamente potrebbe essere possibile le primarie socialiste, la presentazione per le candidature delle primarie socialiste scade il 13 luglio e comunque è un processo che il partito può decidere di rivedere, di riaprire, quindi tecnicamente è possibile. Mi sembra difficile che in una situazione come questa però Strauss-Kahn possa davvero rientrare in corsa per le presidenziali francesi. Lui sicuramente è in una posizione anche psicologica molto difficile. Certo. La vicenda giudiziaria americana, attenzione, non è comunque conclusa, nel senso che anche qualora il giudice dovesse decidere nell'udienza straordinaria di questo pomeriggio di ridare a Strauss-Kahn la libertà di movimento, quindi togliendogli gli arresti domiciliari e l'obbligo del braccialetto elettronico, difficilmente gli verrà restituito il passaporto, cioè nel senso che dovrà comunque restare negli Stati Uniti fino alla conclusione dell'inchiesta da parte del procuratore e o del processo, qualora si vada a un processo. Quindi mi sembra che sia dal punto di vista dei tempi, sia dal punto di vista diciamo emozional psicologico, mi sembra francamente difficile, certo, che Strauss-Kahn possa tornare in campo. Grazie a Marco Mussanè, collega del Sole 24 Ore. Il grande concerto degli Eagles a Monte Carlo, aperto ieri sera, festeggiamenti per il secondo matrimonio dell'anno. Il principe Alberto e l'ex campionessa di nuoto Charlene si uniranno oggi civilmente, domani il matrimonio religioso. Tutto pronto a Monaco per i primi due sì, che verranno pronunciati oggi alle 17, sanciranno il matrimonio civile tra il principe Alberto e la sudafricana Charlene Wittstock, 33 anni. Sono passati 5 anni da quando l'ex campionessa di nuoto, alta, biondissima e super spalluta, è comparsa per la prima volta al fianco di Alberto. Domani il principato festeggerà il secondo matrimonio con rito religioso, a cui sono invitati i capi di Stato e di Governo di tutto il mondo. A poco più di due mesi dalle altre grandi nozze del 2011 tra il principe William e Kate Middleton, i media possono raccontare un'altra favola, che ha rischiato però di non avere un lieto fine o di interrompersi ancora prima di iniziare. Nei giorni scorsi erano circolate voci, smentite con sdegno, di un tentativo di fuga in Sudafrica di Charlene, sconvolta per aver scoperto un figlio, sarebbe il terzo, illegittimo di Alberto. Il dubbio resta, ma prevale il desiderio di vedere finalmente sistemato quello che per decenni è stato considerato lo scapolo d'oro più incallito del pianeta. A Monaco ci sarà anche un tocco di Made in Italy, a firmare l'abito della sposa è stato Giorgio Armani e italiani sono i paramenti della celebrazione nuziale ideati e realizzati dalla ditta Il Campanile, arte sacra di Sanremo. Giulia Crivelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Alfano, segretario del PDL per acclamazione, voglio un partito di onesti, dice, e non tutti lo sono, e ricandida Berlusconi per il 2013. Alle 17 nuova udienza a New York per l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn, che potrebbe tornare presto libero. Per il New York Times la cameriera avrebbe mentito sulla violenza sessuale. E ripartiamo dalla cronaca, da quanto accaduto nella notte a Milano. I buchi nella ricostruzione sembrano esserci. Li denunciano i familiari e li sospetta il PM di turno, che ha disposto altri accertamenti. Bisogna capire meglio, insomma, come mai Michele Ferrulli, 51 anni, sia morto ieri sera dopo un controllo della polizia in via Varsavia a Milano. La versione dei fatti fornita finora è questa. A mezzanotte Ferrulli e altre 5-6 persone urlavano e ascoltavano musica ad alto volume. La volante è intervenuta dopo la chiamata dei residenti. Ferrulli, secondo la polizia, era il più esagitato del gruppo ed è stato bloccato a fatica usando le manette. A quel punto è arrivato il malore, il ricovero al policlinico di San Donato e la morte poco dopo. La famiglia dice chiaro e tondo di sospettare un pestaggio. Per ora dalla questura trapela solo la relazione medica dell'ospedale. Non vi sarebbero segni evidenti di gravi traumi subiti, ma solo lesioni ai polsi compatibili con le manette. Paola Nania, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Proseguono le ricerche dei complici dei due ventunenni accusati di aver aggredito la notte fra sabato e domenica il musicista Alberto Bonanni, che resta ricoverato in coma profondo. I due saranno probabilmente sentiti oggi dal GIP a Regina Coeli per la convalida dei fermi. Reazioni politiche ha suscitato la foto su Facebook in cui uno dei due arrestati fa il saluto romano. Il sindaco Alemanno parla però di polemiche sterili. Alemanno ieri ha firmato un'ordinanza che da oggi al 30 settembre limita il consumo di alcol nelle zone della movida romana. Vendita e consumi vietati fra le 23 e le 6 del mattino, quest'anno anche ad Ostia sul litorale. Il TAR del Lazio ha annullato la decisione della commissione pentiti del Viminale, che l'anno scorso aveva rifiutato l'ammissione al programma di protezione al collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza. Quella del TAR è una sentenza importante, ha commentato il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Può restituire fiducia al mondo dei pentiti anche quando parlano di fatti scottanti. Ora l'arresto del fratello di Totò Riina, Gaetano, considerato il nuovo capo del clan di Corleone. Gaetano Riina abitava a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, dove stamattina è stato arrestato, ma comandava a Corleone. E lui, secondo i magistrati della procura di Palermo, è il nuovo capo del mandamento. Dalle indagini emerge che dava lezioni alle nuove leve di Cosa Nostra e teneva i cordoni della cassa. Il fratello più giovane di Totò, che ha 78 anni, si muoveva spesso da Mazara a Corleone. Lo sapevano gli investigatori, che per 2 anni l'hanno tenuto d'occhio, mentre lui dava lezione ai nuovi reggenti di Cosa Nostra, suo nipote e suo cognato Giuseppe Grizzafi e Alessandro Correnti, anche loro arrestati all'alba di oggi assieme ad una quarta persona alla quale viene contestato solo il concorso in estorsione. Gaetano Riina li indirizzava su dove prendere i soldi, su come estorcere il denaro soprattutto agli imprenditori che si occupano di appalti pubblici. Per questo, oltre che di associazione mafiosa, deve rispondere di estorsione. I suoi precedenti penali risalgono alla fine degli anni 80, da allora nemmeno una denuncia. Adesso l'accusa di essere il nuovo capo di Corleone. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo a Napoli. Ieri, come sapete, il via libera del governo al decreto sui rifiuti. Si potrà spostare la spazzatura napoletana in altre regioni, purché limitrofe, purché queste la vogliano. Sul decreto è arrivato però il no della Lega. Ma il problema dei rifiuti in Campania è anche un problema di impianti e ciclo industriale di smaltimento che funziona a singhiozzo. Romolo Napolitano ne ha parlato con il direttore di Lega Ambiente Campania, Raffaele Del Giudice. È dal 2008 che noi dicevamo, attenzione, che giugno 2011 ci ritroviamo con le discariche piene di questi famosi stiri, insomma, che andavano in sofferenza, e soprattutto è più di una volta che ripetiamo che Acerra, che è un impianto di termodistruzione a servizio anche della città di Napoli, dava dei problemi con continui blocchi, e oggi è in blocco una linea di quell'impianto. Quindi gli allarmi sono stati lanciati, purtroppo non sono stati accolti, e quindi oggi la situazione è quella che è. Cosa manca al ciclo di smaltimento campano? Assolutamente gli impianti di compostaggio, non sappiamo più come dirlo, sono anni, mancano gli impianti intermedi di compostaggio per la frazione umida, perché attualmente le frazioni umide che vengono raccolte a Napoli, vengono raccolte, ci sono quartieri di Napoli che raggiungono alte qualità di raccolta differenziata, ma questo viene portato, l'umido in modo particolare, fuori regione con dei costi enormi. Bisogna dare una corsia preferenziale per quanto riguarda la costruzione degli impianti di compostaggio, questo farebbe risparmiare soldi, tempo di conferimento, e potrebbero far aumentare ancora di più i volumi di umido, che è poi quello che durante l'estate in modo particolare crea problemi. E andiamo all'estero, perché parte oggi il semestre europeo di presidenza della Polonia. C'era una volta l'idraulico polacco. 6 anni dopo l'affondamento della Costituzione europea nel referendum francese e 5 anni dopo il varo della direttiva servizi, mutilata di una clausola che avrebbe, secondo i sindacati, aperto le porte al dumping sociale da parte dei lavoratori dell'est, la Polonia prende da oggi il timone dell'Unione europea. L'idraulico polacco non fa più paura, mentre Varsavia corre inseguendo tassi di crescita che l'Europa occidentale, in primis l'Italia, sogna di notte. Per il 2011 e il 2012 si stima un PIL al più 4%. Ovviamente il balzo in avanti della Polonia è stato ampiamente sostenuto dai fondi strutturali, peraltro ben spesi. Nei 7 anni di programmazione europea stanno confluendo a Varsavia un totale di oltre 80 miliardi di euro. Ma la svolta è stata soprattutto politica. Lasciatasi alle spalle l'era buia dei fratelli Kaczynski, iperconservatori e isolazionisti, il cui declino è stato accelerato dalla tragica morte dell'allora presidente Lech, la Polonia di oggi è guidata dal liberale Donald Tusk, aperto all'Europa. Un interlocutore considerato credibile a Bruxelles, dove a guidare l'Europa Parlamento è un altro polacco, Jerzy Buzek. Varsavia intende cercare accordi sulle nuove prospettive finanziarie europee fino al 2020, capitolo estremamente importante dal punto di vista del bilancio comunitario, sulla sicurezza energetica, ma soprattutto su un capitolo che chiude il cerchio col passato, quello della libera circolazione delle persone e dei lavoratori, un punto su cui la Polonia intende far passare il principio che in un'Europa integrata non possono esistere barriere, anche solo temporanee. Il ricordo torna a quel biennio folle che affossò subito dopo un allargamento realizzato, questo è vero, troppo in fretta, i pur timidi piani di un'Europa più integrata. Bastò il fantasma dell'idraulico polacco a uccidere in culla la Costituzione europea. 3 anni dopo sarebbe arrivata la grande crisi economica e avremmo scoperto come un'integrazione realizzata solo a metà possa rischiare di far saltare in aria tutto. Toccherà alla Polonia rilanciare il progetto europeo? Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tutti i bambini devono essere uguali di fronte alla legge. Questo è lo spirito del disegno di legge approvato alla Camera con un voto bipartisan, che mira a porre fine alla disparità di diritti fra figli legittimi e figli naturali. Attualmente, infatti, la legge riconosce ai bambini nati fuori dal matrimonio il solo legame fra il figlio e il genitore che lo ha riconosciuto, ma non quello con nonni e zii, e lasciandolo esposto a controversie, ad esempio riguardo all'eredità. L'avvocato Milena Pini, presidente dell'Associazione Italiana Avvocati per la Famiglia, al microfono di Giacomo Segantini. Il punto più importante è forse quello che riconosce il vincolo di parentela a tutti i figli, eliminando la discriminazione tra figli naturali e figli legittimi. Nella legge non si farà più alcuna differenza anche linguistica, tutti i figli sono uguali, hanno pari diritti e pari dignità. Sarà quindi possibile per i figli naturali avere dei nonni, avere degli zii, così come avviene oggi per i figli legittimi. E quindi ai figli naturali viene riconosciuto un diritto di successione nei confronti dei parenti. Un'altra cosa molto importante è la possibilità per la madre e il padre di riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio anche se erano sposati al momento del concepimento del figlio, e questo riconoscimento potrà anche avvenire congiuntamente. Inoltre la madre ha la possibilità di, laddove riconosca il figlio per primo, il bambino manterrà il cognome della madre anche se successivamente riconosciuto dal padre. Alessandro Haber si difende dalle accuse di Lucia Lavia, che ha intenzione di querelarlo per il bacio, secondo lei troppo appassionato, dato dall'attore durante le prove di uno spettacolo. Stavo unicamente cercando di fornire un'interpretazione del mio personaggio, ha detto Haber, del tutto in linea con il mio ruolo di attore ed interprete. La compagnia Nuova Scena Teatro Stabile di Bologna ha licenziato Haber e lo ha sostituito con un altro attore nell'Otello, che debutterà al Teatro Romano di Verona il 13 luglio. Haber ha commentato: si tratta di una strumentalizzazione finalizzata a dare pubblicità allo spettacolo. Nessun commento alla vicenda da parte di mamma Monica Guerritore, impegnata oggi al Festival di Spoleto con lo spettacolo Mi chiedete di parlare, tratto dai testi di Oriana Fallaci. Sentiamo la Guerritore al microfono di Paolo Panceri. Considero la Fallaci, da tutto quello che ho letto, che non sono i suoi romanzi ma sono le sue interviste, le sue parole, le sue frasi, e sapendo, essendo a conoscenza di tutto quello che è la sua vita, un personaggio tragico che ha tutta la dignità per poter diventare un grande personaggio teatrale. E quindi sono andata così, come una sorta di torcia che va a illuminare quello che può essere questo enigma. Questa donna incredibile si è chiusa in una solitudine assoluta e ha convissuto tutta la sua vita con la morte, odiando la morte, cercando la libertà personale, cercando la libertà durante le guerre che ha combattuto in Vietnam, strappandosi il velo davanti a Khomeini, cercando veramente di essere sempre con le spalle dritte, e invece poi è rimasta in qualche modo prigioniera di tutta questa guerra che ha sempre avuto intorno e dentro di sé, e questa morte che la accompagna da sempre. Quindi noi abbiamo questa immagine della fallaci, ma dentro quegli occhi c'è proprio tanta paura, tanta rabbia, tanta morte. È un personaggio incredibile. Io entro dentro lì per vedere chi era, che cosa poteva essere nella solitudine della sua casa. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.